su di me. Basta solo che mi firmi questo documento, così sarai mon amour per l'eternità. Comprami l'anima al prezzo che vuoi, strappami il cuore più forte che vuoi, lasciami almeno il sudore per il rock and roll, per il rock and roll. Ciao, siamo di gloria, voglio tutto il mio successo, resta solo un putrido ricordo che è di me. Ora il mio talento brucia mentre sulla strada è l'inferno, il nostro caldo piccolo chalet. Usami l'anima quanto più puoi, gioca col cuore ogni volta che vuoi, lasciami solo il sudore per il rock and roll, per il rock and roll, per il rock and roll, per il rock and roll. La la la la la la la la la la. Ed ora sono solo e stanco e senza qualità. Ora mi arrotello tra i rimpianti ed un ridendo, sto aspettando solo che raggiunga l'aldilà. Vendimi l'anima al prezzo che vuoi, ridammi il cuore se proprio non vuoi, lasciami almeno il sudore.